Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Napoli è mille colore, Napoli è mille paura. Si intitola A ogni santo la sua candela. L'ha scritto Stefano Crupi al suo secondo libro pubblicato da Mondadori. Stefano Crupi aveva avuto un certo successo con il suo primo romanzo che si intitolava Cazzimma. Anche il titolo, insomma, aveva destato, come dire, una certa curiosità da parte dei lettori. E adesso torna con questo romanzo che ha molto, molto, molto a che fare con il mondo del lavoro, perché il protagonista è un ragazzo, Ernesto, che, laureato in economia e commercio, deve trovare a tutti i costi un lavoro a Napoli. Ma, come dire, la vera madrina di tutto ciò, diciamo, colei che guida un po', che manovra i fili di questo Ernesto, è la madre Maristella. Allora Stefano, partiamo da questo personaggio, da Ernesto. Devo dire che i primi capitoli, quelli in cui si parla proprio di lui che va a fare i colloqui di lavoro, eccetera, mi hanno molto colpito perché, insomma, piuttosto forti. Ad un colloquio di lavoro lui prende un ragazzo che pensa essere omosessuale, gli dà un cazzotto in faccia per fare in modo che non partecipi al colloquio, un altro lo corrompe dandogli dei soldi, l'altro lo minaccia. Insomma, quanto è determinato e quanto è profondamente bastardo questo Ernesto? Allora, diciamo che provocatoriamente potremmo dire che il mio romanzo potrebbe essere un vademecum per chi cerca lavoro, anche se, insomma, visti i tempi di crisi è talmente difficile trovare lavoro che forse bisogna inventarsi anche questi sistemi così estremi per ottenerli. In realtà Ernesto è un ragazzo molto molto particolare, perché chiaramente viene da un ambiente difficile, un ambiente in cui ha imparato a campare. E sapendo campare bene, sa usare tutti i metodi, anche chiaramente quelli non ortodossi, per ottenere quello che vuole. Diversamente dal protagonista del mio precedente romanzo, Cazzimma, che invece era un ragazzo diciottenne, quindi più giovane, che voleva inserirsi all'interno del quartiere, quindi aveva come modelli dei personaggi, delle personalità criminali, diciamo. Invece in questo caso Ernesto vuole fuggire dal quartiere, però nello stesso tempo si porta dietro il quartiere è dentro di lui non riesce ad emanciparsi. I meccanismi, la mentalità, che è raffigurata poi molto, molto di più ancora, in maniera più forte, in Maristella, in sua madre, che gli suggerisce tutta una serie di cose da fare perché lei ha più esperienza del mondo e sa come le cose effettivamente funzionano. È terribile Maristella, perché quando lui va a fare per esempio i colloqui si informa su tutte le persone che deve incontrare. Non so se per esempio un dirigente di un posto di lavoro ha un amante, dice: beh, tira fuori il nome di quella lì al momento giusto, così insomma in qualche modo facciamo sapere che noi sappiamo. È una che ha anche una rete di informazione, lo fa chiaramente per il bene del figlio, sia chiaro, però è una manipolatrice a suo modo. Esatto, lei tesse tutte queste trame intorno al figlio, sa che comunque non basta semplicemente il merito a far strada nel mondo del lavoro, ma servono appunto questi santi. Sa che bisogna mettersi dietro a un uomo di potere, perché solo quell'uomo di potere può farti fare carriera. Chiaramente poi esistono tutti degli step, nel senso che ognuno poi, tutti i personaggi che incontra durante questa ascesa servono fino a un certo punto, poi ne serviranno degli altri, e non si fa scrupolo chiaramente di non avere alcun freno morale nella sua azione educatrice nei confronti del figlio. È un pochettino incarna non solo le madri italiane in genere, ma quel familismo amorale di cui si parla ultimamente molto, che in Italia attecchisce parecchio, cioè questa cosa che i valori morali valgono all'interno della propria famiglia, certo, ma all'esterno invece non valgono assolutamente. Non valgo niente, cioè, il discorso se mio figlio cambia. deve andare avanti esatto, comunque, insomma. Esatto. È anche uno strano rapporto quello che c'è fra Maristella e il figlio, perché è un rapporto fatto di complicità. Sicuramente Maristella è la sua guida morale, ma anche proprio pratica, pragmatica. Come l'hai immaginato questo rapporto fra i due? Allora, chiaramente il romanzo è costruito proprio sul rapporto dialettico tra queste due persone e tra queste due personalità molto diverse. Da una parte c'è un ragazzo che vuole emanciparsi non solo dal quartiere, ma anche dal rapporto con sua madre. E dall'altra c'è una madre che invece vede nel ragazzo un modo anche per arrivare a qualcosa, per fare il cosiddetto salto sociale che magari lei non è riuscita a fare completamente. E all'inizio il romanzo è costruito in modo che sia Maristella ad utilizzare Ernesto per il salto sociale, e a un certo punto Ernesto però si accorge di usare a sua volta Maristella, e soprattutto si accorge di non che a un certo punto non gli è più utile, perché anche qui c'è un superamento, uno step successivo, deve rivolgersi a qualcuno ancora più potente, sia ancora più in alto, se vuole fare questo salto proprio di questo qualità, ulteriore insomma. Salto di qualità. E quindi c'è, il romanzo è tutto costruito in questo modo. E a proposito della struttura di questo romanzo, tu hai fatto parlare in prima persona la mamma Maristella, mentre in terza persona le cose che avvengono ad Ernesto. Come mai questa scelta? È una scelta chiaramente voluta, nel senso che Ernesto nella prima parte è una sorta di burattino nelle mani della madre, quindi non ha una vera e propria sua personalità, o comunque una personalità che si sta ancora formando, è ancora acerba. Invece Maristella ha una personalità molto più forte, molto più sviluppata, deve parlare in prima persona anche perché ha una storia alle spalle, diversamente da Ernesto che ha una storia invece piuttosto piccola, piuttosto recente, e questa storia raccontata da lei in prima persona dà anche una ragione, spiega anche perché Maristella ha questa mentalità, cioè questa mentalità da dove esce fuori. Ma è un modo per giustificare le azioni di Maristella? Assolutamente, non è un modo per giustificare, nei miei racconti non c'è però nello stesso tempo nessuna posizione morale, anche in Cazzino. Non c'è né giudizio, né condanna, assoluzione. Uno di questi romanzi che vanno molto di moda, che mischiano giornalismo, al romanzo, a saggio. In realtà il mio è pura narrativa, il romanzo, vengono raccontati i fatti nudi e crudi. Io cerco anche nei racconti in terza persona, la voce narrante è a sua volta un personaggio, perché è portatore della stessa mentalità dei personaggi che racconta, ed è quello che fa un po' il mio stile. Anche in Cazzimma raccontavo una mentalità lontanissima poi dalla mia personale, ma proprio perché volevo raccontarla, volevo far immergere il lettore all'interno della storia che stavo raccontando, e quindi non ci sarà mai una digressione in cui si dice cosa è giusto, cosa è sbagliato, ma i fatti vengono raccontati. È un romanzo che si legge d'un fiato, ma proprio perché è la mia idea di letteratura questa, cioè io voglio che i miei lettori leggano un romanzo, seguano la storia, ne siano invischiati, coinvolti sin dall'inizio, sin dalle prime pagine, non riescono a staccarsi, e nello stesso tempo però i temi che affronto sono dei temi importanti. I temi sono importanti, attuali e immagino anche verosimili. Ora non so quanto tu abbia lavorato di fantasia e quanto ti sia ispirato alla realtà. Certo fa una certa impressione vedere a che cosa si è disposti ad arrivare pur di ottenere un lavoro. Quanto allora c'è di vero in questo scenario che tu descrivi? Allora, per uno scrittore è sempre difficile capire cosa viene preso dalla realtà, o comunque è difficile scindere, perché a un certo punto si è talmente immersi all'interno del romanzo che i personaggi diventano veri, sono delle persone che tu vedi, anche se chiaramente nella loro costruzione ti sei ispirato a dei personaggi che hai realmente conosciuti. Ci sono diversi personaggi che io ho realmente conosciuto all'interno della storia, ci sono diverse vicende a cui io ho assistito personalmente e direttamente all'interno della storia. Faccio un esempio. Il primo esempio che mi viene in mente è quello dei regali, questa consuetudine dei regali che poi dà anche una ragione del titolo a questo romanzo. Questo romanzo si intitola Ogni santo la sua candela, perché a Napoli non si festeggiano i compleanni. Perché non si festeggiano i compleanni? Perché il compleanno dopo una certa età non è più visto come un giorno tanto da festeggiare, perché si invecchia e quindi insomma non fa tanto piacere scoprire che si è invecchiati di un altro anno. Invece gli onomastici fanno molto piacere, primo perché mentre i compleanni se ne ricordano due o tre persone, in certo, realtà dell'onomastico comune si ricordano tutti, e poi è anche bellissimo essere associati a un santo, cioè a qualcuno che ha fatto delle gesta, insomma, che è una personalità. E poi altra cosa fondamentale, secondo me, ma non solo a Napoli, anche a Roma, a Milano, a Torino, in tutte le città d'Italia, è che questo genere di cose fanno in modo che le relazioni fra i potenti o anche fra quelli che occupano quella, diciamo, quella zona grigia, non quelli i potentissimi, ma quelli che occupano delle posizioni di potere, possano stringere delle relazioni fra loro. Quelli intermedi, insomma, quelli fare intermedi, regali, esatto. Regali, chiamiamoli così, oppure tangenti, oppure insomma, sono regali, non qualcosa. Sono tangenti, perché chiaramente è sottilissimo il filo che separa regalo a tangente. Se io per esempio faccio un regalo a una persona potente, senza alcun motivo, dico solamente ti ho fatto un regalo, però anche piuttosto impegnativo, spendendo una determinata cifra di denaro, e poi però dico non voglio nulla in cambio. Poi metti che tra 2 o 3 anni, dopo che ogni anno ti ho fatto un regalo sempre più costoso, sempre di più, vengo di valore, a chiedere qualcosa, mi serve in qualcosa cambio. Allora ti telefono e ti dico guarda, c'è questo problema, vedi che quella persona sicuramente si metterà a tua disposizione, semplicemente se sa che c'è lì uno scambio. Io occupo questa posizione di potere, la occupo grazie a chi mi sta intorno, non posso fare terra bruciata intorno a me. E questo è il meccanismo che tu racconti nel romanzo. Ma è questo proprio il meccanismo che esiste in Italia ed esiste in ogni ambito, non esiste nell'ambito, ma se vogliamo anche nell'ambito dei libri, se vogliamo anche nell'ambito della politica, chiaramente ancora di più. Nel momento in cui entra una forma di politica nel giudizio e non una forma legata al merito, in quel momento lì il sistema funziona in questo modo, funziona tra scambi di favori, di amicizie, di regalie, di raccomandazioni tra le varie persone che sono implicate in questo gioco. Io non voglio fare Alice nel Paese delle Meraviglie, perché veramente non lo sono, insomma a 45 anni non lo posso essere, però mi fa una certa impressione pensare che effettivamente tutto sia così. Io voglio ancora sperare che ci siano tante tante eccezioni rispetto a questo modello. Sicuramente ci sono delle eccezioni, su questo non ci sono dubbi. Io per esempio la mia lente di ingrandimento si è focalizzata sugli enti pubblici. Sì. Esistono però degli enti pubblici che funzionano. Allora, l'ente pubblico è il museo, ci sono tanti enti sono pubblici, tante cose. Non è che. Però ci sono una serie di enti pubblici che sono inutili. E non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono dei giornalisti importanti. Anche la Corte Gianmaria dei Conti. Stella si è espresso dicendo che esistono degli enti inutili che insomma impiegano tutta una serie di un numero impressionante di dipendenti. Se si va a vedere l'attività che svolgono i dipendenti di questi enti pubblici, non è colpa dei dipendenti, ma è colpa proprio del sistema, perché l'attività in realtà non esiste, quindi è un'attività piuttosto esigua. Occupano 100 dipendenti quando potrebbero occuparne 1, 5 al massimo per fare quell'attività, e molti non fanno niente. Perché si tengono questi dipendenti all'interno di questi enti pubblici? Semplicemente perché sono un bacino di voti e nessun politico si prenderebbe la briga di chiuderli mettendosi contro tutti questi voti, rinunciando a tutti questi voti. E nonostante ciò tu dici che il tuo romanzo non è un romanzo di denuncia sociale. Il mio romanzo è un romanzo che di denuncia sociale, ma è nel significato narrativo del termine. Io racconto una storia, non sono un giornalista, sì, sono è uno scrittore. Certo. Sono uno scrittore, racconto una storia e amo la narrativa che fa partire delle discussioni. Grazie allora Stefano Crupi, ora in libreria con A ogni santo la sua candela, pubblicato da Mondadori. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo come sempre che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast. E per essere aggiornati potete seguirmi anche su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.